Altogiorno. Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. È stato dirottato un aereo da Alessandria d'Egitto e atterrato a Cipro, ma non si tratterebbe di terrorismo. L'autore del gesto, la cui identità è stata diffusa pochi istanti fa, avrebbe chiesto di vedere l'ex moglie. Il caso Regeni è attesa per oggi la conferenza stampa ai genitori di Giulio, apertura del Cairo, intanto che dopo l'ennesima versione dice vi daremo gli atti. Dopo l'arresto di un noto PR romano per prostituzione minorile si ipotizza il coinvolgimento di un secondo uomo, l'indagine potrebbe dunque allargarsi. Questa sera a Monaco l'amichevole tra Germania e Italia, Conte dice giochiamo contro i migliori ma non abbiamo paura, forti le misure di sicurezza. Una buona giornata da Simone Spezia, bentornati a Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. I nostri contatti in apertura, come sempre, sono il 349-238-6666, tanto per gli sms quanto per i messaggi su WhatsApp, l'email effettogiorno@radio24.it e da un paio di giorni abbiamo aperto anche un canale su Telegram, se siete su questo sistema di chat potete accedere anche là per avere qualche informazione da noi. In apertura dunque parliamo del dirottamento avvenuto questa mattina di un aereo in Egitto, un aereo partito da Alessandria e diretto al Cairo, che in realtà è arrivato a Cipro. La situazione è ancora decisamente confusa, Laura Bettini, no? Buongiorno, sì, davvero confuso, è un fumettone a tinte gialle e rosa questo del dirottamento dell'aereo Egyptair, ci scherziamo un po' sopra perché la storia comunque al momento non è una storia pericolosa per nessuno, almeno sembra, poi vedremo nelle prossime ore. Va detto subito che è stato completamente scagionato dall'accusa di essere un dirottatore il professore di veterinaria della Università di Alessandria di Egitto, che oggi in tutto il mondo è stato ritenuto il responsabile di questo dirottamento. È intervenuto anche il rettore dell'università per fare chiarezza sulla vicenda. Alla fine il governo egiziano addirittura ha fatto le scuse al professore, che appunto è stato confuso e da testimone che era è diventato il colpevole agli occhi del mondo di questo dirottamento. Il dirottatore invece è, dice il Ministero degli Esteri cipriota, un altro egiziano, Seif Eldin Mustafa, dovrebbe avere 59 anni, un ex moglie cipriota che vive a Larnaca, proprio quindi lì dove è stato portato l'aereo, e che sembrava essere la ragione di tutta questa vicenda. Le ha fatto recapitare una lettera di 4 pagine, lei è arrivata all'aeroporto, sembra che abbia partecipato alle trattative per la liberazione degli ostaggi con il dirottatore. Restano ormai poche persone, alcuni dicono 5, altri dicono 9, comunque tutti gli altri sono stati fatti scendere. C'era anche un italiano che è stato liberato. Ora però sembra che questo dirottatore stia facendo delle altre richieste oltre a quella di parlare con l'ex moglie, ad esempio liberare alcuni prigionieri detenuti in Egitto, spostarsi, questo è stato pubblicato poco fa, in Turchia. Insomma, non è esattamente chiaro che cosa desidera e non è chiaro nemmeno se davvero ha una cintura esplosiva addosso, come ha detto ai piloti per ottenere che l'aereo appunto dirottasse e arrivasse a Cipro. Allora, questo è quello che sappiamo finora, è importante anche questo dettaglio della cintura esplosiva, perché nel caso l'avesse avuta o l'avesse davvero, là bisognerà vedere appunto quali erano le misure di sicurezza nell'aeroporto di Alessandria d'Egitto. Vi aggiorneremo nel corso della trasmissione e poi nell'arco di tutta la giornata su questa vicenda, anche per come si andrà a concludere. Intanto ringraziamo Laura Bettini per questo punto su quello che sappiamo fino ad ora. Ci spostiamo adesso a parlare di terrorismo e dei numerosi passaggi dall'Italia, spesso come mero luogo di transito, va detto, di alcuni componenti della rete terroristica che ha colpito a Bruxelles il 22 marzo e a Parigi nel novembre scorso il servizio. El Bakrawi e Salah, due dei membri della cellula che ha pianificato e realizzato gli attentati di Parigi e Bruxelles, e poi Ouali, l'algerino, che avrebbe fornito i documenti falsi allo stesso Salah, e altri due terroristi, Mohamed El Ouali, un marocchino arrestato in Germania 2 giorni dopo le stragi di Bruxelles, sul cui telefono la polizia trova collegamenti con uno dei kamikaze di Bruxelles. Sono questi alcuni degli uomini che si muovevano liberamente per l'Europa. Alcuni sono passati dall'Italia come El Bakrawi e Salah, diretti in Grecia e poi in Turchia. Gli uomini dell'antiterrorismo italiano stanno verificando ora tutti i dati a disposizione. Finora non sarebbe stata individuata la presenza nel nostro paese di una filiera stabile o di soggetti che possano aver offerto appoggio ai terroristi, allargando le verifiche anche a tutta una serie di soggetti sotto osservazione perché ritenuti a rischio. Si analizzano chat, profili social, contratti di affitto e pagamenti con carte di credito. Ad esempio si cerca Abderrahman Benamor, l'uomo che ha pagato con carta di credito i voli a El Bakrawi al-Bakrawi, movimenti che inquietano se si legge ad esempio la storia di Ibrahim el-Bakrawi, fratello di Khalid, anch'egli kamikaze a Bruxelles. I magistrati belgi, dopo avergli dato 9 anni nel 2010 per aver sparato sulla polizia, gli avevano concesso la libertà provvisoria. Non sarebbe dovuto uscire dal paese e invece lo ha fatto più volte, non solo il 14 luglio a terra a Schiphol, ma un errore di comunicazione fa sì che olandesi e belgi lo lasciano andare. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Intanto è notizia di questa mattina da Bruxelles che il Parlamento federale ha deciso autonomamente di alzare il livello di allerta terroristica al massimo, nonostante l'Organismo Nazionale di Valutazione della Minaccia, l'OCAM, lo abbia riabbassato al livello 3. Lo ha deciso il Presidente della Camera belga. Proprio al terrorismo e ai metodi per contrastarlo e non solo è dedicata l'analisi di oggi del nostro Daniele Biacchessi. Dopo gli attentati di Parigi e Bruxelles, il mondo si sente più insicuro e anche in Italia si è avviato in queste ore il dibattito sulle modalità per sconfiggere il terrorismo jihadista e fondamentalista. Nel nostro paese gli apparati dello Stato hanno accumulato dagli anni 70 una forte specializzazione rispetto a forme classiche di terrorismo autoctono, tipo la lotta armata di sinistra e lo stragismo di destra. Dall'11 settembre 2001 le cose sono diametralmente cambiate per vari motivi. Gli jihadisti compiono attentati e si autoeliminano facendosi saltare in aria con gli obiettivi prefissati. Al-Qaeda era una rete, mentre l'ISIS è uno Stato che combatte sul campo con un esercito vero e proprio e colpisce nelle grandi capitali internazionali attraverso un network logistico composto da cellule locali formate generalmente da ragazzi giovanissimi, di seconda o addirittura terza generazione, molto spesso con gradi di parentela strettissimi. Gli investigatori che lavorano sugli attentati di Parigi e Bruxelles si muovono dunque su un terreno impervio, imprevedibile e sempre in salita, compiendo dunque numerosi errori. Hanno ad esempio privilegiato le attività di intelligence, spesso opache, poco trasparenti, senza avviare una forte riforma della cooperazione giudiziaria internazionale, di cui, ricordo, magistrati e forze di polizia sono protagonisti assoluti, e un'attività seria di prevenzione coordinata a livello europeo. La tentazione è quella di inasprire le leggi, rendendole speciali e di emergenza, ma quella del terrorismo jihadista non è un'emergenza, bensì una terribile quotidianità, perché da sempre le leggi speciali limitano i diritti e rendono le democrazie ancora più fragili. Così dunque l'analisi del martedì del nostro Daniele Biacchessi. Una notizia di cronaca che arriva da un campo profughi in Turchia. 3 bambini sono morti in un incendio divampato al confine con la Siria. Lo riferisce l'agenzia turca Anadolu. Le fiamme sono divampate, per caso ancora da accertare, nel campo allestito vicino alla città di Derik, nella provincia turca di Mardin, che ospita al momento 20.000 profughi. La scorsa settimana un altro bimbo è morto in un incendio divampato nello stesso campo profughi e che ha distrutto 21 tende. Veniamo ad un altro fronte di tensione internazionale, in questo caso prevalentemente tra due paesi, ossia l'Italia e l'Egitto. Parliamo evidentemente del caso Regeni e dei continui tentativi del Cairo di trovare nuove versioni che poi vengono ritrattate. Ieri è stata offerta massima collaborazione all'Italia e si attende per oggi, tra poco, una conferenza stampa dei genitori di Giulio Regeni che parlano per la prima volta. Sentiamo. Dall'Egitto arrivano nuove aperture sul caso di Giulio Regeni. Le indagini vanno avanti e c'è piena collaborazione con gli inquirenti italiani, ha fatto sapere ieri il ministro degli interni egiziano. La sua rassicurazione arriva dopo le dure reazioni da parte italiana al tentativo di attribuire la morte del giovane ricercatore ad una presunta banda di sequestratori poi uccisi dalla polizia egiziana. Una pista apparsa subito poco credibile. A testimoniare quello che sembra un cambio di clima c'è anche la telefonata fatta ieri dal procuratore generale egiziano al procuratore capo di Roma Pignatone, che ha in carico la parte italiana delle indagini sulla morte di Regeni, rapito, torturato e ucciso al Cairo, secondo modalità che fanno pensare ad un omicidio commesso da apparati dei servizi. Dopo un lungo braccio di ferro, gli inquirenti egiziani avrebbero assicurato di essere pronti a consegnare tutta la documentazione richiesta dai colleghi italiani, compresi i filmati ripresi da alcune telecamere di sicurezza e i tabulati telefonici grazie ai quali sarà forse possibile ricostruire gli ultimi spostamenti di Regeni, i cui genitori oggi pomeriggio nel frattempo incontreranno la stampa in Senato. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Inizia oggi ufficialmente la campagna elettorale per il referendum Trivelle. Il quesito in sostanza riguarda le concessioni per lo sfruttamento dei giacimenti di gas e petrolio nei nostri mari e non eventuali nuove trivellazioni. Il concetto è questo: quando scadranno le concessioni nelle acque territoriali italiane, gli impianti vanno fermati oppure no? Questa è la sostanza del quesito referendario. Intorno a questo naturalmente si accende il dibattito politico. Elisabetta Fiorito, buongiorno. Sì, Simone, il PD lascia libertà di voto anche se non mancano le divisioni. Il ministro dell'Ambiente Gianluca Galletti voterà no se si recherà alle urne. Il presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Piero La Corazza, del PD, uno dei principali promotori del referendum, annuncia invece una verifica sulla violazione della par condicio a seguito dei dati pubblicati dalla GCOM che evidenziano la totale assenza dell'argomento nel sistema informativo. La maggioranza del PD è per il no, anche l'ex premier Romano Prodi è per il no e questo indebolisce la minoranza che voterebbe sì, come Cuperlo, Speranza e Bersani. Per il sì il Movimento 5 Stelle, che nel blog di Beppe Grillo chiede di fermare le trivellazioni per evitare altri disastri ambientali, e deputati e senatori 5 Stelle chiedono anche al governo di garantire le agevolazioni a studenti e pendolari per il prossimo 17 aprile. Quindi lo ricordiamo, si vota domenica 17 aprile e il referendum è stato promosso da 9 consigli regionali. Sul quesito abrogativo pesa come sempre il quorum. Chi vota sì al momento della scadenza delle concessioni chiede che vengano fermati i giacimenti in attività anche in caso di gas o petrolio. A te, Simone. E grazie Elisabetta Fiorito. Tra l'altro il presidente del Consiglio Matteo Renzi oggi parte per gli Stati Uniti per una visita che lo porterà anche a visitare un grande impianto realizzato da un'azienda italiana proprio in ambito energetico. Sentiamo. Agenda fittissima e come potrebbe essere diversamente per i 4 giorni di missione del Presidente del Consiglio negli Stati Uniti. Giovedì Renzi sarà a Washington per il Nuclear Security Summit, un appuntamento sulla sicurezza nucleare voluto da Obama e che quest'anno ospita una sessione dedicata alla lotta al califfato. Prima di arrivare a Washington, però, il Premier attraverserà altri 3 stati per tappe molto italiane. In Nevada, dove Renzi visiterà l'impianto di Enel Green Power di Stillwater, il primo ibrido al mondo. Poi sarà la volta dell'Illinois. A Chicago, oltre alla scuola italiana, visiterà il Fermilab, dove è stato scoperto il bosone. In Massachusetts andrà al centro Watson Health dell'IBM, prima di intervenire ad Harvard. Tanta tecnologia in questa visita, preludio a quella celebrazione di Internet che in Italia è stata fissata per il 29 aprile. Attività in tutte le scuole, manifestazioni dedicate ai cittadini, alle imprese e alla pubblica amministrazione. Il resto tocca a noi, scrive il Premier. Il 7 aprile sarà presentato il primo bando sulla banda ultralarga, primo di una serie per portare a tutti i cittadini entro il 2020 la connessione internet ad alta velocità. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Restiamo negli Stati Uniti per parlare però della vicenda FBI versus Apple. L'FBI ha sbloccato l'iPhone di uno degli attentatori della strage di San Bernardino. Lo ha fatto senza l'aiuto della Apple e dunque non ci sarà processo contro la società. Il Dipartimento di Giustizia americano e Apple non si vedranno in tribunale per discutere del rifiuto dell'azienda di aiutare l'FBI a sbloccare l'iPhone di uno dei terroristi che il 2 dicembre a San Bernardino in California uccisero 14 persone. L'accesso a quelle informazioni potrebbe essere utile a ricostruire la rete di contatti dell'uomo e il fattore tempo è dunque importante. Proprio per questo e per non attendere i tempi della giustizia, l'FBI si era rivolta a Cellebrite, azienda israeliana specializzata nell'estrazione di dati da smartphone oggetto di indagine. L'operazione ha avuto successo e dunque la causa contro Apple è ora inutile, anche se non è ancora chiaro quale sia la tecnica usata e se potrà essere utilizzata in futuro su altri dispositivi in possesso delle forze dell'ordine. Proprio questo ha sempre contestato Apple. La richiesta dell'FBI di creare una sorta di passepartout per quel telefono avrebbe messo a rischio milioni di altri iPhone se quel software fosse finito nelle mani sbagliate. Una presa di posizione che aveva innescato un acceso dibattito dividendo l'America sostanzialmente in due: chi ritiene che il governo debba poter accedere ai dati dei cittadini in caso di minaccia alla sicurezza nazionale e chi è a favore della privacy più stretta e accusava il governo americano di avere fatto leva su un caso eclatante per creare un precedente non solo contro Apple, ma verso tutte le aziende della Silicon Valley alle quali miliardi di utenti affidano i propri dati. Enrico Pagliarini, Radio 24, Il Sole 24 Ore. di problemi tra autorità giudiziarie, in questo caso italiane, e grandi colossi americani, in questo caso di internet, torneremo a parlare tra poco, per una vicenda che riguarda Facebook. Perché? Perché in sostanza c'è una giornalista che è stata minacciata e insultata su Facebook da due pagine che erano Musulmani d'Italia e Islam Italia. Un giudice di Reggio Emilia ha chiesto l'oscuramento di queste pagine e Facebook si è sostanzialmente rifiutato. Parleremo proprio con la collega giornalista che è stata minacciata. Andiamo alla cronaca con i nuovi dettagli sulla vicenda del PR romano arrestato con accuse che riguardano la prostituzione minorile. Claudio Nucci, il PR romano 56enne arrestato a febbraio con l'accusa di sfruttamento della prostituzione minorile e detenzione di materiale pedopornografico, può non aver agito da solo. Le intercettazioni, che insieme ai pedinamenti hanno portato al suo arresto, stanno infatti mettendo gli inquirenti su una pista che porta ad almeno un altro uomo, forse un confidente, più probabilmente un complice. Ma i tabulati telefonici al vaglio degli inquirenti potrebbero anche rivelare una vera e propria rete di pedofili. Di certo, un altro uomo sapeva delle esperienze sessuali del 56enne con i ragazzini dei quartieri nord di Roma. Giovani dei 14 ai 16 anni avvicinati del PR grazie anche alle amicizie intessute con i loro genitori nelle serate mondane a cui l'uomo partecipava. Giovani adescati attraverso modi affabili e tanti regali con i quali Nucci convinceva gli studenti ad avere rapporti con lui, soldi, ricariche, abiti firmati, poi li riprendeva col telefonino e quindi li ricattava minacciando di raccontare tutto alle loro famiglie. I dettagli di questi incontri illegali Nucci li raccontava senza scrupoli ad un'altra persona al telefono, la quale ascoltava senza eccepire o comporsi, dunque, con ogni probabilità, un complice. Stando a quanto ricostruito fino ad ora, Nucci avrebbe abusato di 5 ragazzini, 2 dei quali studenti di un esclusivo liceo della zona Prati. Ad incastrare il 56enne, la denuncia sporta dallo zio di una delle vittime che, controllando il telefonino del nipote, ha scoperto la relazione e i conseguenti ricatti. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. A chiudere questa prima parte della trasmissione e prima appunto di occuparci della vicenda di cui vi dicevo un istante fa e poi anche di vicende che riguardano la Val Bisagno, ricorderete il Bisagno dove ci sono state molte esondazioni, 2 delle principali che hanno colpito Genova nel 2011 e nel 2014, ebbene ci sono ancora 40 frane che incombono sulla Val Bisagno. Ma prima di parlare di questo parliamo di calcio con il nostro Dario Ricci per la partita di questa sera tra Germania e Italia. Dario. Eh sì, Simone, beh, basta il nome, no? Perché Germania e Italia ha scritto capitoli della storia del calcio. Sono 20 anni che non ci battono i tedeschi, quindi insomma, tutto sommato, se devono scegliere un'occasione è meglio stasera che agli europei. Ma anche stasera la combattiva Italia di Conte cerca la conferma di quella bella prova di appena pochi giorni fa contro la Spagna a Udine. Schieriamo un tridente giovanissimo, Insigne, Zaza e Bernardeschi, perché servono anche queste partite per testare questi talenti a livello massimo, perché poi gli europei, lo sai bene, non faranno sconti fin da subito. Giochiamo contro i campioni del mondo in casa loro, ma una Germania che è un po' diversa, un po' più scricchiolante per alcuni aspetti rispetto a quella campione del mondo in Brasile, e lo dimostra anche la sconfitta interna contro l'Inghilterra della Nouvelle Vague appena pochi giorni fa per 3-2. Beh, insomma, sì, sarà spettacolo e speriamo di dover parlare solo di quello, perché Monaco di Baviera è militarizzata, 1500 agenti intorno all'Allianz Arena. Davvero speriamo di poter parlare solo di calcio stasera. Ti ringrazio, grazie Dario Ricci per questo aggiornamento. Dunque, stasera per la partita, intanto il traffico, ci risentiamo tra poco. I 2 argomenti che tratteremo tra un attimo, ve l'ho già detti, ci sentiamo dopo il traffico. Index protegge e risana edifici in più di 100 paesi nel mondo. Indexpa.it vi presenta Effetto Giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. I nostri titoli: è stato dirottato un aereo da Alessandria d'Egitto e atterrato a Cipro, non si tratterebbe di terrorismo. L'autore del gesto ha chiesto e ha visto l'ex moglie, avrebbe chiesto un pieno per l'aereo per arrivare in Turchia. Il caso Regeni, attesa per oggi la conferenza stampa dei genitori di Giulio, apertura del Cairo, che dopo l'ennesima versione dice vi daremo gli atti. Con l'arresto di un nuoto PR romano per prostituzione minorile si ipotizza il coinvolgimento di una seconda persona. L'indagine dunque potrebbe allargarsi. Benedetta Salsi è una giornalista del Resto del Carlino. Benedetta, buongiorno e benvenuta. Buongiorno a tutti. Succede questo, che Benedetta Salsi scrive un pezzo abbastanza piatto, non nel senso che è un pezzo scritto male, nel senso che è un pezzo di semplice cronaca, sulla vicenda di un ragazzo italiano convertito all'Islam e al quale il giudice di fatto impedisce di uscire di sera, viene giudicato una persona pericolosa. In questo pezzo Benedetta Salsi riporta anche la versione dei fatti di quest'uomo, tale Aleotti, il quale scrive su Facebook di non avere alcun legame né con l'ISIS né con Al-Qaeda, dice di essere contro ogni forma di terrorismo e di dissociarsi completamente da chi uccide innocenti. Quindi una parte, quella dei magistrati, e l'altra, quella, diciamo, di quello che non è un imputato, ma è la persona, come dire, della quale si sta trattando. Appunto, un pezzo di cronaca fatto come Dio comanda. Succede però che dopo questo pezzo di cronaca, Benedetta, ti iniziano ad arrivare insulti e minacce via Facebook. Sì, il giorno stesso della pubblicazione di questo articolo compare su una pagina Facebook denominata Musulmani d'Italia, compare un post dove c'è la mia fotografia, c'è il mio nome, il mio cognome, il posto in cui lavoro e vari insulti, insomma, che riguardano la mia sfera privata, personale, cose molto pesanti. Vengo additata come islamofoba e viene detto che per tutti questi atti io sono punibile severamente secondo lo statuto giuridico islamico. Quindi nessun riferimento al mio lavoro, in realtà nessun riferimento al contenuto dell'articolo che avevo scritto, se non la coincidenza temporale, che era abbastanza allarmante, nel senso che il giorno stesso in cui è uscita l'articolo, la mattina alle 7:10 è comparso questo post, quindi... Ed è una pagina riconducibile a questo Luca Aleotti, da che tu sappia, ovviamente, da quel che ne sai? Assolutamente sì, in poche ore gli uomini, gli investigatori hanno chiarito che era lui uno degli amministratori di questa pagina, anche perché questo ragazzo è tenuto sotto controllo dalla Digos, quindi loro già sapevano che lui era uno degli amministratori di questa pagina e di altre pagine di stampo islamista. Perfetto, e sono state, dicevi, ci sono stati insulti e ci sono state anche vere e proprie minacce, mi sembra di aver capito. In questo posto si dice che io sono veramente... Allora, Benedetta, ti stiamo perdendo. Vediamo un attimo se riusciamo a recuperare la telefonata con Benedetta Salsi del resto del Carlino, perché la vicenda si evolve in che modo? Si evolve con un magistrato di Reggio Emilia che intima a Facebook di oscurare le due pagine e appunto Facebook si rifiuta. Vediamo se siamo in grado di recuperare Benedetta Salsi, ce l'abbiamo? No. Pronto? Pronto, ci senti? Eccoci sì, qua. Sì, io vi sento. Eccoci qua. Succede questo, che di fatto, nella sostanza, tu sporgi denuncia e chiedi di... il magistrato di Reggio Emilia chiede di oscurare a Facebook, di oscurare queste due pagine e questo non avviene, Facebook si rifiuta. Sì, diciamo che non chiede, il giudice, il GIP impone, fa un decreto in cui... dispone l'oscuramento di queste due pagine Facebook, Musulmani d'Italia Comunità e Musulmani d'Italia, un'altra pagina, un gruppo chiuso, quindi dispone l'oscuramento di queste due pagine l'8 marzo e Facebook nei fatti ha preso tempo, nonostante quattro solleciti della procura non lo ha fatto e il 24 marzo ha risposto ufficialmente rejected. Quindi ha dato delle motivazioni Facebook per questo rifiuto? Nessuna motivazione. Ha detto solo rifiutato. Allora, vedremo come evolverà la situazione, perché da quel che sappiamo poi il magistrato vuole andare avanti da questo punto di vista e immagino che voglia andare avanti pure tu, Benedetta Salsi, giornalista del Resto del Carlino. Io intanto ti ringrazio e ti auguro buon lavoro. Qua c'è una piccola nota, se volete, se vi sarà capitato ogni tanto di scrivere qualche post politicamente scorretto su Facebook, avrete notato che tempo 5-10 minuti Facebook sospende, se non cancella il post, sospende anche solo l'utente, può capitare anche questo, solamente perché non rispetta gli standard della comunità. È abbastanza curioso che rifiuti questa richiesta del giudice, ma magari riusciremo ad avere qualche chiarimento ulteriore. Giacomo Giampedrone, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a voi. Giacomo Giampedrone, assessore alle infrastrutture, ambiente e difesa del suolo della regione Liguria. Lo abbiamo chiamato perché oggi abbiamo visto pescato un pezzo sul secolo XIX che, devo dire la verità, che è il giornale di zona, appunto, della Liguria e di Genova in particolare, che ci ha incuriosito e colpito. Parliamo della Val Bisagno. Il Bisagno, lo ricorderete, è quel torrente che è già esondato due volte solamente a Genova, e parliamo solamente di Genova, protagonista insieme al Ferreggiano delle alluvioni del 2011 e del 2014. Scopriamo oggi dal secolo XIX che in Val Bisagno ci sono circa 300 frane, di cui 40 attive. È un numero pazzesco, Giampedrone. Beh, assolutamente sì, è uno dei motivi per cui noi parliamo di rischio idrogeologico e quindi non solo di rischio idrologico. È chiaro che Genova Liguria è passata all'attenzione negli anni per i grandi disastri alluvionali, anche per tanti morti che abbiamo purtroppo patito, ma il piano della tutela dei cittadini deve essere allargato sicuramente alle frane. Questo dato sulla Val Bisagno, ci riferiamo quindi all'entroterra di tutti quegli affluenti che poi arrivano nel fiume Bisagno, è un dato certamente che impressiona, ma se lo rapportiamo alle 15.000 frane che noi abbiamo censito su tutto il territorio ligure, è un dato assolutamente coerente. In Liguria ci sono 15.000 frane? 15.000 frane attualmente censite, di cui ne abbiamo 22 monitorate, perché sono frane praticamente di versante che vanno a insistere su centri abitati, quindi con un rischio maggiore rispetto a tutte le altre. Sono 15.000 quelle che noi abbiamo censito per nei piani di bacino. Giampedrone, rimaniamo però sul punto della Val Bisagno, perché questo è secondo me un elemento fondamentale, perché uno può fare a valle tutti gli invasi se vuole, che vuole, poi però se trovi, come dire, la terra che frana e che blocca le acque a monte, come dire, no, il problema resta e i rischi restano, insomma, no, a monte di quegli invasi. Avete perfettamente ragione, del motivo per cui io ho chiesto nell'articolo del secolo XIX di oggi che non sia solo la regione a intervenire con risorse proprie, anche perché non sempre ci se la fa, soprattutto noi interveniamo per ripristinare, diciamo, i primi interventi successivamente al crollo della frana per una viabilità, diciamo, minore, ma poi dopo servono risorse aggiuntive per andare a ripristinare il nostro territorio. Se noi interveniamo a valle con risorse stanziate anche dal governo importanti, è necessario fare altrettanto nell'entroterra e quindi a monte, perché poi sappiamo che tutti questi colatori minori che vanno verso valle, se provocano smottamenti, come diceva molto bene lei, invece in territori dell'entroterra, poi possono causare anche esondazioni di torrenti certamente minori del Bisagno in qualità di, diciamo, fiume principale, ma certamente possono andare a mettere in crisi varie zone abitate o comunque viabilità noi come l'Aurelia piuttosto che l'autostrada. A chiudere i lavori sul Bisagno, sul Ferreggiano, come stanno andando? A che punto siamo? Nel senso molto che i cittadini genovesi possono stare tranquilli nel caso che venga un'altra pioggia violenta come quella del 2014, o speriamo di no, come quella del 2011, che fu veramente terribile anche in termini di quantità di precipitazioni? Noi dobbiamo ormai educare i cittadini a parlare di rischio residuo, anche quando tutte le opere stanno terminate, mi auguro il più presto possibile, saranno comunque opere minore, ma certamente un rischio che rimane, parla di grandi fiumi come il Bisagno. Abbiamo opere che sono in corso con stanziamenti del governo di 265 milioni, il terzo lotto della copertura del Bisagno è in corso di appalto, il Ferreggiano, lo sformatore del Ferreggiano è in corso di definizione, dovrebbe andare a definizione ultima azione lavori 2018, e lo sformatore invece del Bisagno, è la vera opera rivoluzionaria per la messa in sicurezza di Genova, stiamo procedendo a stiamo procedendo però assessore, allora la ringrazio, mi sembra che siamo comunque a buon punto da quel che abbiamo capito. Noi la ringraziamo, dovremmo insegnare ai nostri ospiti di mettersi in un posto dove il cellulare prende, perché oggi evidentemente sta andando piuttosto male. Grazie comunque a Giacomo Giampedrone, assessore alle infrastrutture della Regione Liguria. Noi adesso ci fermiamo, andiamo a sentire cosa succede sui mercati e poi nella seconda parte della trasmissione torneremo a parlare di radicalismo islamico. In che chiave? Nei giorni scorsi è stato lanciato un allarme anche dai capi dell'amministrazione penitenziaria, che dicono: attenzione, un detenuto un detenuto su 5 è di religione musulmana. Il rischio di radicalizzazione in carcere è molto forte. Ebbene, c'è un imam, quello di Genova, quindi rimaniamo in zona, che sono 17 anni che va nel carcere di Marassi per la preghiera del venerdì, ed è stato uno di quelli che questo allarme l'ha lanciato. Parleremo con lui per farci raccontare che cosa sente e che cosa vede tutti i giorni. A tra poco. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. È stato dirottato un aereo da Alessandria d'Egitto e atterrato a Cipro. Non si tratta di terrorismo, a quanto pare l'autore del gesto, la cui identità è stata diffusa solo poco fa, e sarebbe un uomo egiziano, avrebbe chiesto di vedere l'ex moglie e alla fine l'avrebbe incontrata. Il dirottatore, ha riferito il ministro pochi istanti fa, voleva andare in Turchia. Per il caso Regeni, a proposito di Egitto, attesa per oggi la conferenza stampa dei genitori di Giulio, è arrivata ieri l'apertura del Cairo, che dopo l'ennesima versione dei fatti ha detto: vi daremo gli atti. Dopo l'arresto di un noto PR romano per prostituzione minorile, si ipotizza il coinvolgimento di un secondo uomo, l'indagine dunque potrebbe allargarsi. Questa sera a Monaco l'amichevole tra Germania e Italia, Conte dice: giochiamo contro i migliori ma non abbiamo paura. Alla borsa. Effetto giorno. Ed eccoci di nuovo dunque, Hussein Saleh, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a lei. Hussein Saleh, di origine palestinese, è in Italia da 35 anni, arrivò 35 anni fa in Italia a Genova come studente alla facoltà di ingegneria, oggi responsabile del Centro Islamico Culturale di Genova Khalid Ibn Walid. Da 17 anni lavora come mediatore culturale e come volontario all'interno delle carceri, oggi guida ogni venerdì la preghiera settimanale al carcere Marassi di Genova. Nei giorni scorsi abbiamo visto tra le altre un'intervista al capo dell'amministrazione penitenziaria, Santi Consolo, il quale ci ricordava che su 50.000 detenuti oltre 10.000 sono di religione musulmana, e ci segnala, e segnala, cosa che aveva già fatto in realtà, il rischio che la radicalizzazione parta proprio da là, proprio dalle carceri. Io vorrei sapere innanzitutto da lei, e poi insomma parliamo del lavoro che si potrebbe fare, che segnali ha ricevuto in questi anni da questo punto di vista? Il segnale è molto chiaro che l'esigenza, il bisogno della persona, appunto, che possa garantire il diritto alla propria religione in carcere, ad accogliere, ascoltare le sofferenze, a guidare le persone nelle loro aspettative, nelle loro scelte di vita, che è un bisogno molto molto forte. Quindi io ho iniziato nel 99 come mediatore culturale, e da subito le richieste erano molto chiare sull'assistenza religiosa, sì, ai detenuti. La richiesta è partita dai detenuti stessi. Questo è un punto, Saleh, però se mi permette, io volevo capire prima da lei se lei coglie questi stessi segnali dei quali parlava Consolo, cioè il fatto che il carcere rappresenti un ambiente adatto alla radicalizzazione, no? Magari uno entra per un piccolo reato, ne esce fuori dopo essere stato contattato da persone che magari lo hanno convinto ad una battaglia jihadista, per così dire. È un luogo nel quale questo avviene, può avvenire? Sì, il rischio c'è, il rischio è oggettivo, perché nel carcere si trovano persone che sono delle volte arrabbiate, che hanno senso di aver subito delle ingiustizie, quindi questa mescolità, ignoranza, che è abbastanza frequente, e rabbia e rancore, può diventare una facile vittima per i predicatori. E quindi il rischio oggettivo c'è. E ce ne sono nelle carceri di questi predicatori? Cioè, le è mai capitato di incrociare qualcuno nel suo lavoro quotidiano in questi anni, magari proprio nel carcere di Marassi, qualcuno che immagino a un certo punto sia stato segnalato che faceva, chiamiamolo così, il predicatore d'odio, per usare un'espressione un po' abusata? No, io non ho avuto a che fare con dei predicatori, però probabilmente c'è la mia fama in qualche maniera di una persona abbastanza equilibrata, fa sì che un presunto predicatore non affronta me. Però dico in generale, persone arrabbiate che erano facili preda le ho incontrate sicuramente. Sicuramente. Senta, Sale, che cosa si può fare secondo lei per evitare che si innesti questo rischio, che questo rischio si trasformi in qualcosa di concreto? Ci ribadisco il bisogno del detenuto della preghiera è molto, molto forte. In alcune carceri questa preghiera collettiva del venerdì viene fatta in maniera autonoma dai detenuti, che diventa una cosa anche lì rischiosa, perché chi guida la preghiera assume una responsabilità importanti, un riconoscimento dai detenuti stessi. Quindi se una persona lei dice può essere chiunque questa persona che guida la preghiera, e quindi può essere tanto una brava persona come lei appunto, quanto un radicale appunto. Esattamente, quindi il consiglio che io feci anche quando ho ottenuto dei corsi di formazione alla polizia penitenziaria, che si instaurano dei rapporti con delle associazioni riconosciuti, o addirittura se il Ministero si sta muovendo in questa direzione sarebbe l'optimum, nel senso che se formano delle persone conosciute e si entra in maniera ufficiale con delle persone responsabili di quello che stanno facendo. Quindi la scelta è quella, non si può lasciare un buco con un rischio così elevato. Certo, lei dice in sostanza introdurre nelle carceri, far entrare nelle carceri solamente imam riconosciuti, tra virgolette. Riconosciuti e formati, perché l'ambiente del carcere è un ambiente molto delicato. Bisogna anche conoscere la normativa, le dinamiche che ci sono, i rischi che si incontrano, quindi non si può improvvisarsi imam del carcere. Anche se uno fa l'imam fuori, quindi deve fare un percorso formativo. La ringrazio. Grazie a Hussein Saleh, imam di Genova, al quale auguriamo un buon lavoro, in particolare per quello che fa nelle carceri. Un ultimo aggiornamento prima di andare a sentire il traffico e poi che cosa ci dice Mario Platero oggi, di cosa ci parla America 24, che riguarda il dirottamento, che era la nostra notizia di apertura, questo aereo dirottato da Alessandria d'Egitto che doveva atterrare al Cairo, invece è atterrato a Cipro. Non si tratta di terrorismo a quanto pare, si tratta di un uomo, un egiziano, che ha chiesto di vedere la moglie, che si trova proprio a Cipro. Ebbene, l'ultima notizia mostra l'uscita dall'aereo Egyptair di 4 persone, oltre ad una che si è calata dalla cabina di pilotaggio. Questa è l'ultima notizia che è arrivata, erano ancora 9 le persone all'interno dell'aereo, quindi a questo punto ne dovrebbero rimanere 4, ma anche su questo fronte le cose non sono chiarissime. Traffico, Platero, ci risentiamo alla fine per i saluti.